non siamo paesi di mare, io senza stisi carnazzari, noi mangiamo carni, maiali, furbetti, brocola, carnivale. Oi senza stisa calava li panni a chi raffondare di Fra Giovanni, oi senza stisa quando pari peggio a cadere quelli da Venicella. Oi senza sti, diciami quando nasce una giucaglietta l'ubanno, nessuno penso sa scordato. Come ci frisca lo mercato? Dopo un poco gridavi d'ancora, domani l'acqua forse mora. E informavo ogni vecchia reggia perché girava ad ogni vaneggia. Poi senza sti come tieni caro tiro, io non cambi sbagliato. Zafarana e bolivinzi, noi amo e massaggiamo lo vino. E giriamo cantina cantina fino a quando vena mattina. Ginghia pure sta tra l'angeggia, cani fricamo un'altra tristeggia. E la gente com'è felice, specie si ingappa chi raccalici. E la gente com'è felice, specie si ingappa chi raccalici. Un sapevo tu sei sfortunato ma dici friconti sì chiunato. Un sapevo tu sei sfortunato ma dici friconti sì chiunato. E dici dimmi chi non è chiuso, alla madonna tu mi tiruto. Non c'è con lo zoom e non muto, tutti quanti ci hanno fatto voto. E dici dimmi chi non è chiuso, alla madonna tu mi tiruto. Non c'è con lo zoom e non muto, tutti quanti ci hanno fatto voto. Oi fanciulla quando si beggia si vistuta da vergineggia. O pellegrine devote ti canta, porti in capo la cinta santa. E ti canta l'Ave Maria, benedici la casa mia. A settembre guaglione di uno che avevo comprato lo scarpuno. Ti compriamo un buon cappotto, calavera finisce lo gotto. Gira lo giovine lo vecchiareggio, cana comprano mai a liegio. Non mi dà chi sto che è malato, donami staggio che è stato sanato. Vieni po' la baracca rapa, spezzatino e carni crapa. Oi sanzosti come si bella, luci che in cielo come una stella. Oi sanzosti che tieni un dolore, caso ignorate che vuoi gli umori. Oi sanzosti come si bella, luci che in cielo come una stella. Oi sanzosti che tieni un dolore, caso ignorate che vuoi gli umori. E dici dimmi che non è chiuso, alla madonna tu mi tiruto. Non c'è con un super non muto, tutti quanti ci hanno fatto voto. E dici dimmi che non è chiuso, alla madonna tu mi tiruto. Non c'è con un super non muto, tutti quanti ci hanno fatto voto. E dici dimmi che non è chiuso, alla madonna tu mi tiruto. Non c'è con un super non muto, tutti quanti ci hanno fatto voto.